respiro. Ben ritrovati da Laura Bettini per questa puntata di Respiro che dedichiamo agli ambientalisti inaspettati, per così dire, a quelli insomma su cui non avreste scommesso molto in quanto a investimenti per l'ambiente, perché per un motivo o per un altro sono capisaldi della modernità, del consumismo e del consumo dell'ambiente naturale, per così dire. Il primo è Costa Crociere, ben nota compagnia italiana che in questi ultimi tempi si è aggiudicata anche l'Oscar dei porti italiani per il suo impegno nella tutela ambientale. Il secondo è un centro commerciale, il Carosello di Carugate, vicino a Milano, la cui nuova ala, inaugurata poco tempo fa, è stata realizzata con interessanti criteri di ecosostenibilità. Cominciamo ad andare per mare con Ernesto Gori, Vice President Quality Standards, Compliance and Auditing di Costa Crociere. Una qualifica difficile da tradurre, lo ammette lui stesso, ma che in sostanza significa che Gori ha la responsabilità della gestione ambientale in generale e dei controlli qualità, sicurezza e ambiente a bordo e negli uffici. Questo perché la certificazione UNI EN ISO 14001 che Costa ha ottenuto implica il rispetto degli standard in tutti gli ambienti di lavoro della compagnia, nonché nei rapporti con gli esterni. Nelle motivazioni per l'attribuzione a Costa Crociere dell'Oscar dei Porti si legge: per lo straordinario impegno profuso per la salvaguardia ambientale, anche attraverso la diffusione della cultura del rispetto e della tutela dell'ambiente, soprattutto marino, svolto in collaborazione con il WWF Italia. Con il WWF abbiamo una collaborazione che va avanti ormai da più di 3 anni, partiamo da luglio 2005, da quell'anno che siamo a fianco del WWF per la tutela di 3 delle ecoregioni marine più preziose minacciate al mondo, le aree del Mar Mediterraneo, delle Grandi Antille e del Brasile Nord Orientale, che sono aree piene di specie particolari e alcune anche a rischio estinzione. Ci siamo impegnati sostanzialmente in un'opera di formazione e di educazione diretta ad ogni singolo ospite che si trova a bordo delle nostre navi. E inoltre poi chiediamo, tramite anche documentazione, brochure, comunque documentazione informativa posizionata all'interno delle nostre cabine, chiediamo ai nostri ospiti anche di dare un contributo economico che poi va a sostegno di questi interventi da parte del WWF per queste tre ecoregioni. Questo per quanto riguarda l'Oscar dei Porti e la collaborazione con il WWF. Per quanto riguarda invece la certificazione che avete ottenuto dal RINA, che cosa vi ha comportato? Che tipo di lavoro avete dovuto fare? I primi passi per arrivare alla certificazione ISO 14001, che è uno standard internazionale, è stato quello di analizzare tutte le attività con impatti sull'ambiente, no? Tutte le attività che vengono svolte all'interno di Costa Crociere, non solo a bordo delle navi ma anche a terra nei propri uffici, perché la nostra è una certificazione globale, non controlla solamente gli aspetti, gli impatti ambientali a bordo ma anche a terra nei nostri uffici. Quindi un'analisi approfondita di tutte le attività svolte, quindi proprio un'analisi preliminare mirata a individuare tutti gli aspetti di impatti ambientali. Una volta individuati questi, siamo passati a sviluppare tutte le nostre procedure. Quindi poi, sviluppando questo processo di procedure e documentazione, sono state implementate sia a bordo che a terra, le abbiamo seguite per un periodo di rodaggio e poi abbiamo incominciato con la fase di controllo, di ispezione, perché poi Costa Crociere è una struttura interna con gli ispettori ambientali che svolge i controlli a bordo delle navi e anche a terra, sia programmati che a sorpresa. E dopodiché si prende carico di tutte quelle che sono le non conformità, le cose che non vanno bene, si studiano, si analizzano, si misurano e si migliorano. E di qui poi nasce anche il piano di miglioramento. Quindi, vuol dire. Senta, vedo qui un elenco, diciamo, di tutto ciò che avete dovuto fare, e vedo gestione dei rifiuti, consumo dell'acqua, le acque di scarico, certo, energia, certo. Carburante. Che cos'è che vi ha reso la vita più difficile? Cos'è stato più difficile portare a bordo? Difficile portare a bordo probabilmente cercare di cambiare la mentalità delle persone, no? Nel senso che noi, un po' come italiani, anche se poi a bordo abbiamo anche altre nazionalità, non siamo tanto propensi ad accettare le regole in generale, no? E comunque parlare di un sistema di gestione, un sistema di qualità in Italia è Abbiamo lavorato tantissimo a livello proprio di preparazione, di training, di sensibilizzazione sul nostro personale e adesso direi che ormai le cose non vanno proprio in automatico al 100%, ma ci siamo molto vicini. Spesso si legge delle emissioni di anidride carbonica a parte certo. Dalle navi. Tutto ciò che voi avete fatto comporta anche una riduzione delle emissioni? C'è anche questo nei nostri obiettivi, tenga presente che noi già, prima ancora che molti porti obbligassero, usavamo combustibile con basso contenuto di zolfo, addirittura inferiore ai limiti prestabiliti dalla legge. Se la legge prevedeva un 3,5-4% di contenuto di zolfo, noi eravamo già addirittura con combustibili con contenuti dall'1,5 al 2% di zolfo. Noi abbiamo programmi di analisi annuali su tutte le navi di controllo sulle emissioni, quindi noi facciamo le analisi sui fumi che emettiamo dalle nostre navi, sia dagli inceneritori che dai motori. Voi siete l'unica flotta che batte bandiera italiana crocieristica. In questo campo le regole sono stringenti. Assolutamente. È un paradosso, no? Perché poi dopo non ci piace rispettarle, però le abbiamo molto stringenti rispetto ad altri. È un paradosso, ma molto spesso io mi occupo di queste cose, prima mi occupavo anche di sicurezza a bordo delle navi. Purtroppo mi sono reso conto che in fase di emanazione di leggi, l'Italia butta avanti le leggi, però senza pensare veramente molto spesso a quello che comportano, mettendo poi in difficoltà seriamente chi opera. Io mi ricordo tanti anni fa, un esempio banale, una normativa in materia di sicurezza che prevedeva della documentazione che doveva essere mandata all'approvazione a Roma al Ministero competente. Io ho lavorato 6 mesi per riuscire a trovare l'indirizzo al quale mandare questa documentazione. Oltre a ricerche su internet, tutto perché nessuno poi all'interno di quelli stessi che avevano emanato la legge sapeva chi doveva approvarla. Dalle navi ai centri commerciali, la nuova ala del centro carosello di Carugate, di proprietà di Eurocommercial Properties, la prima società straniera che ha investito nei centri commerciali in Italia, è stata costruita con particolari criteri di ecosostenibilità. Il progetto è degli studi di architettura Dunnett Craven di Londra e OneWorks con sedi a Milano e Venezia. Leonardo Cavalli è uno degli architetti che ha curato questo progetto. Io credo che sia stato importante, da un lato, che fossimo a Carugate, non lo dico perché abbiamo fatto il lavoro lì e per nessuna ragione specifica, però il comune di Carugate è il primo comune in Italia, con Bolzano, che ha approvato un regolamento edilizio ormai da anni, a con forte indirizzo ecocompatibile. Quindi questo ha fatto sì che il progetto prendesse questa direzione, anche perché Eurocommercial Properties, che è la proprietà, era interessata per seguire questa strada e naturalmente noi l'abbiamo seguito volentieri, però abbiamo fatto, se vogliamo, abbiamo colto l'opportunità all'interno di questa indicazione che il Comune aveva posto nel suo regolamento edilizio. Ed è diventata una vera opportunità, è diventata anche, io credo, una delle chiavi di successo anche in ambito regionale, perché il progetto, oltre naturalmente ad essere verificato con tutti i parametri che la regione richiedeva, aveva anche queste caratteristiche. Diamone qualcuna per far capire agli ascoltatori, cioè qualcuno avrà visto le fotografie, sono già abbastanza impressionanti, però poi sapere cosa c'è sotto questi campi da calcio verdi. Due, diciamo, è grande come due San Siro il tetto, ma noi intanto credo che sia importante per capire le scelte di natura poi anche progettuale fatte, fa riferimento a due cose. Da un lato il contesto ambientale, cioè il fatto che siamo nella pianura padana, che ha delle caratteristiche specifiche ambientali, non sono valide tutte le regole dappertutto, ovviamente. E l'altro è il fatto che abbiamo realizzato un centro commerciale, quindi un edificio che ha tendenzialmente una grande estensione e non una grande altezza. Questo ci ha suggerito di lavorare su alcuni temi in particolare. Il primo è la tipologia di tetto e quindi l'idea di fare un grande tetto verde. Un grande tetto verde significa realizzare una superficie che, oltre ad avere, diciamo, anche una forte connotazione architettonica, è un elemento che ci consente di mediare il rapporto fra la temperatura esterna e la temperatura interna e quindi trasferire nel maggior lasso di tempo possibile lo scambio di temperatura fra interno e esterno. L'altro elemento importante che ha inciso anche sul carattere architettonico, è l'illuminazione naturale. Noi siamo abituati in Italia ad avere mall commerciali che sono illuminati in forma artificiale. Sì, anche qui, spesso fastidiosa, insomma. Sì, anche, detto... che è anche un po' estraneante rispetto a, alla realtà. Alla realtà. Sì. Uno quando è dentro non sa se piove o c'è il sole, se è giorno o notte, se ci sono le nuvole oppure il cielo è grigio oppure il cielo è splendente. Abbiamo deciso di lavorare sulla luce naturale, naturalmente con tutte le attenzioni del caso, realizzando, sono oltre 70 grandi coni che ci consentono di portare la luce dentro, di far vedere il cielo, ma allo stesso tempo di controllare questa luce per evitare che poi invece i negozianti siano infastiditi da effetti collaterali che i raggi del sole possono provocare sia su chi lavora nei negozi ma poi anche sulle vetrine. Riduciamo il consumo di luce artificiale, ma abbiamo un doppio risparmio, perché i centri commerciali, producendo luce artificiale, anche d'inverno sono raffrescati, perché la luce artificiale scalda. Ah, ho capito. Quindi abbiamo un doppio effetto di risparmio, non è solamente il fatto che risparmiamo sulla bolletta elettrica, ma dobbiamo raffrescare di meno. Risparmiamo anche sul consumo per la produzione di aria condizionata. Tenga presente che dentro abbiamo degli spazi che hanno un'altezza di 10 metri, cioè sono alti il doppio dei mall esistenti. La grande altezza ci consente, da un lato, di far circolare l'aria in forma molto lenta, anche l'aria meccanica all'interno del centro, aumentando il comfort, e poi naturalmente di avere dei fronti commerciali più importanti. È tutto per questa puntata di Respiro. Vi lascio in compagnia del Riposo del Guerriero con Stefano Gallarini. Per scriverci vi ricordo respiro@radio24.it. L'appuntamento è per la prossima settimana alla stessa ora.